Guaperi, guaperi, guaperi, un barrio guaperi, su samina desa, uti arriva, tu mari sareva, umi darivo, guaperi, guaperi. Tumbari guaperi, guaperi, guaperi, tumbari guaperi.